storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera a tutti da Gesi e da Antonio. Caro Antonio, siamo qui anche stasera. Ben volentieri. Ecco, per far compagnia ai nostri ascoltatori, speriamo che siano in tanti ad ascoltarci. Allora Antonio, vai tu. Allora, iniziamo con un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Ciao Eddie. Allora Antonio, stasera non ci ascoltiamo la solita canzone. Beh, intanto diciamo che la trasmissione è dedicata a Venezia e in particolare a Chioggia. A Chioggia. Esatto. Avremo un ospite virtuale questa sera, il professor Luciano Bellemo. Sì, che poi sentiremo per telefono. Beh, volevo dire appunto che anziché la solita canzone in dialetto veneziano o padovano, quello che sia, ci ascolteremo una canzone cantata da Beniamino Gigli, una canzone che mi è stata richiesta diverse volte, perché diciamo a me piace tanto e piace anche a tanti altri, specialmente veneziani. Ed è intitolata Notte veneziana, cantata da Beniamino Gigli. E iniziamo la serata con una nota biografica del nostro ospite virtuale. Luciano Bellemo è nato a Chioggia nel 1947. Dopo la maturità classica si è laureato in filosofia e storia all'Università di Padova e diplomato in filosofia medievale alla Pontificia Università Lateranense a Roma. Dopo 36 anni di insegnamento alle scuole superiori di Venezia e Chioggia, ha raggiunto la sospirata pensione. Assieme ad un gruppo di amici ha aperto il Museo di Sant'Andrea, con l'orologio da torre più antico del mondo, e riscoperto l'archivio storico della parrocchia con documenti del 1327. Ha fatto parte della commissione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'insegnamento della storia contemporanea alle superiori, consigliere comunale di Chioggia per due tornate, errori giovanili, cosiddetti, studioso della storia popolare veneta e chioggiotta e autore di belle canzoni, La ballata di Re Pipino, ad esempio, e del Desarmo, fratello della poetessa chioggiotta Liliana Bellemo, e chi pi se loda se sbroda. Bene, così avete sentito un pochino il profilo di questo professore, che secondo me è una persona eccezionale. Adesso lo sentiremo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione. Allora, stasera ho sentito che ha fatto tante di cose, di quelle cose, mamma mia. Adesso che cosa sta facendo? Stiamo mettendo a posto l'archivio storico, perché abbiamo documenti dal 1327 al 1910. E è rimasto chiuso per una centinaia di anni e ci sono circa un 10.000 documenti. E stiamo leggendoli, alcuni sono in latino, altri in veneto e altri in italiano. Straordinario. Allora, stasera di che cosa ci parlerà? Della mia città, di Chioggia, certo, quel che volete. E poi anche parleremo un momentino, non parleremo, leggerò una poesia o due di sua sorella. Ah, bene, allora, così siamo in famiglia. Così siamo, facciamo tutto. Ma è giusto che anche lei abbia il suo piccolissimo spazio, no? Esattamente. Bene, la parola a lei, professore. Allora, presentare la mia città è molto semplice. È una città di 50.000 abitanti, ha una tradizione storica perché probabilmente di origine romana se non prima, e veniva raggiunta via mare, via acqua, attraverso delle fosse, dei canali, durante il periodo degli imperatori e prima, durante la Repubblica romana, aveva la via Popilia, che era la via che andava da Rimini su fino a Altino e poi a Grado. Quindi è una città antica, almeno da questo punto di vista, ci sono documenti che la ricordano. È stata anche, per sbaglio, una repubblica indipendente e popolare nel 1848, dal 23 marzo, quando sono stati cacciati via gli austriaci, al 2 di aprile. Quindi per 9 giorni siamo stati come San Marino, una repubblica indipendente con governo provvisorio per 9 giorni comunque. Durante la prima guerra d'indipendenza. Durante la prima guerra d'indipendenza. Poi si sono collegati con Daniele Manin e si è formata la Repubblica di Venezia. Ma a che secolo risalga? Questo è del 1848, il 23 marzo. Sì, sì, no, ma la Chioggia, città. Chioggia la città. No, abbiamo documenti, pensiamo che anticamente era una fortezza, un castrum, dicono i latini, probabilmente periodo romano, se non antecedente. Sì, beh, è abbastanza antica, insomma. Sì, è abbastanza antica. E assieme a altre 12 fortificazioni formava le Venezie, perché Venezia inizialmente non c'era, c'era Rivus Altus, c'erano 12 isole con delle fortificazioni e Chioggia era una, l'undicesima, Sottomarina la dodicesima, e avevano dei tribuni, questi tribuni si trovavano insieme e leggevano i loro dux. Siamo ancora in periodo bizantino, quindi fino al 900-1000 era coordinata Venezia, non c'era Rivus Altus, c'era Olivolo, altre zone di Venezia, in totale erano 12, poi è arrivato il Doge e si è formata la Repubblica di San Marco. Ho capito. E c'è qualche curiosità? Dal punto di vista enogastronomico, intanto c'è l'orologio da torre più antico del mondo. Ecco appunto, questo cos'è questo? Che orologio è? Era un orologio che si trovava al comune di Chioggia, quando è stato, è probabilmente dal primo documento che abbiamo del 1386, però da i dondi dell'orologio erano, era medico a Chioggia, abbiamo il documento del 1313, quindi è un po' più antico, e da lì, quando hanno abbattuto il comune gli austriaci, è stato portato nella torre di Sant'Andrea. È stato riscoperto 5-6 anni fa e adesso è visitato, abbiamo avuto circa 25.000, però. Siamo, perché noi lo facciamo gratuitamente, siamo tutti volontari, ecco. E quindi è possibile anche andare a vedere questo orologio da torre, che il meccanismo funziona esattamente. Ah, funziona ancora? Sì, è venuta la RAI, sono venuti gli austriaci, i tedeschi, un po' fino all'Australia a vederlo far funzionare, perché funziona, il meccanismo è stato rimesso a posto durante i secoli, ma funziona, quello originale funziona. Ma suona le ore ogni ora? E allora, noi abbiamo staccato l'orologio, il meccanismo, c'è all'esterno il quadrante e va col sistema elettrico, però all'interno c'è il meccanismo, funzionava in questo modo, suonava l'ora e poi dopo 5 minuti faceva la ribattua, cioè ripeteva il suono, perché per la gente era importante, non sapeva leggere l'orologio, era importante sentire il suono. Ah, ho capito, quindi contavano le ore. Una doppia allerta, diciamo. La doppia allerta serviva proprio perché la vita era quella. E probabilmente deve essere verso il 1340, poco prima o poco dopo. Però il primo documento che abbiamo è di rimetterlo in funzione dopo la guerra di Chioggia nel 1386. Avete avuto una guerra a Chioggia? Qui, sì. Qui tra genovesi e veneziani si sono ammazzati tra il 1379 e il 1380. Ma per quale motivo? Praticamente la supremazia sui mari. Ah, quindi questo... i genovesi sono sbarcati qua e c'è stata proprio una guerra. Addirittura c'è un palio, che si chiama il Palio della Marcigliana, che lo ricorda nel mese di giugno o i primi di luglio, in cui si ricorda appunto questa battaglia in cui inizialmente i genovesi occupano la città e poi dopo un anno i veneziani di assedio cacciano i genovesi. Chiedo scusa se intervengo, professore. C'è anche uno spettacolo teatrale in materia che io ho visto da parte del Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave, una cosa straordinaria. Stiamo raccogliendo documentazione perché probabilmente il periodo i documenti se li sono mangiati, perché erano fatti in carta pecora, la città è stata presa per fame, letteralmente mangiati, quindi sì, hanno mangiato i gransi, i topi, quello che riuscivano a mangiare, e poi hanno preso il cuoio in carta pecora, l'hanno messo in acqua e se lo sono mangiati, e ci mancano circa 40 anni di documentazione negli archivi storici di Chioggia. Ne abbiamo fino al 1340, dal 1340 al 1382 non ci sono, 31 non ci sono, e poi ricomincia i documenti dell'archivio storico. Sì, perché dal 327 cominciano, no, i documenti, mi pare che... Sì, 1327, ma noi ne abbiamo, quelli sono dell'archivio di Sant'Andrea, però ne abbiamo anche antecedenti. Chioggia aveva degli statuti speciali perché la Repubblica Veneta concedeva una certa autonomia, per cui aveva le sue leggi proprie, però chiaramente all'interno della struttura veneziana. E quali erano queste leggi? Che leggi così? Sono statuti che riguardano il matrimonio a livello civile, diciamo, ma anche a livello penale. Era proibita la prostituzione, ad esempio. Sì. C'erano leggi per quando la gente doveva andare a casa, dopo il suono della terza. E sono stati pubblicati ultimamente quelli che vanno dal 1200 al 1297, però pian pianino verranno pubblicati tutti. Ha largamente anticipato i movimenti autonomisti, diciamo, che ci sono anche in epoca moderna, mi pare, sì, o sbaglio. Perché Venezia aveva l'intelligenza di dare un'autonomia, esatto, locale, aveva questa cultura. Mentre per la politica e l'economia controllava, dal punto di vista amministrativo lasciava che, diciamo, i ceti medi e alti delle proprie città si autogovernassero. Quindi non è una tradizione, è una tradizione nuova, ma anche antica. Esattamente. E intelligente soprattutto. Sì. Avete una storia, mi hanno detto, proprio veramente interessante. È un luogo anche di turismo, non il vostro? È un luogo di turismo, perché c'è una parte storica, il turismo storico, al centro storico e anche enogastronomico. Qui si mangia molto bene il pesce pescato fresco, perché lo portano alla mattina alle 2 e a mezzogiorno e a luna è già in tavola, quindi pesce di giornata, chiamiamolo così, e con una cucina propria. In più, essendoci sottomarina con gli orti, c'è tutta una serie di ortaggi, dal radicchio, la rosa di Chioggia, ad altri prodotti, la zucca, la famosa zucca barucca, quella famosa del Goldoni, oppure la zucca marinante, patate e altri prodotti, cipolle, che sono tipiche della zona di sottomarina, che hanno un gusto proprio perché vengono da zone dove sabbiose. Ad esempio, con il radicchio si è fatta ultimamente la birra, la rossa di Chioggia, che è fatta in rapporto anche con le birre di radicchio del Trevigiano. Un'innovazione, quindi. Sì, sì. Poi ci sono anche delle torte fatte con radicchio, tra l'altro, ed è uno dei prodotti tipici, quindi è enogastronomico. Poi sottomarina c'è la spiaggia. Sì, sì, difatti sottomarina è il vero luogo di villeggiatura, no? Sì, ma anche a Chioggia, se uno vuole girare dal punto di vista storico. Io ho sposato una di sottomarina, e tra i chioggiotti sottomarinanti non è che sia corso sempre buon sangue. Ah, no? Ma dicono che per fare il ponte tra Chioggia e sottomarina ho fatto 10 anni di guerra, come nell'Iliade, perché i chioggiotti lo volevano di legno, i marinanti di tola. Ah. E dopo 10 anni sono andati all'Università di Padova e hanno detto, fate metà di legno, metà di tola, e così hanno fatto. E quando è arrivato il sindaco nuovo, il penultimo, sono andato a dire, e qual è il nostro tocco? Ha detto, facciamo un cartello con scritto tocco dei ciosotti e tocco di marinanti. E ha detto, bravo, perché sei bravo a leggere. E allora hanno messo su 2 statue. Se voi fate il ponte, c'è la statua di un ortolano e la statua di un pescatore. Tra le 2 statue poi c'è un pezzo libero, la zona della dogana, per passare da una parte all'altra. Questa è una storiella che raccontano, perché tra i chioggiotti e sono marinanti, per parecchio tempo, gli uni erano ortolani, gli altri pescatori, il clima, ma adesso sì. Invece di amalgamarsi, perché loro, i marinanti. Offrivano il contorno, e Chioggia offriva il pesce. Quindi si sposavano bene, no? Sì, adesso poi quelli sottomarina, con il grande turismo che hanno anche una grande capacità economica. Ah. Quindi una volta erano ortolani. E gli ortolani dice che se c'è un scheo, se fa un buso, se lo mette al collo. Invece i ciosotti ha le mani bucate. Perché metto scheo, va subito perché spende subito. È proprio la mentalità diversa tra pescatori da una parte e ortolani dall'altra. Linguaggi diversi di espressione. E anche il linguaggio dal punto di vista dialettale. Voi avete un dialetto particolare, però un dialetto duro un po'. E quindi anche i marinanti hanno un dialetto ancora diverso dai ciosotti. Hanno un dialetto diverso. E anche, ad esempio, i racconti dei bambini hanno diverso. E barba su con su chi in su che era, a Marina prestami la tua padella. Barba su con, prestami la fersura col tuo fersuro, o a ciosa. Cioè, raccontare la stessa storia ai bambini ha proprio linguaggi diversi. Allora, se lei adesso attende un attimo... E noi facciamo ascoltare un'altra canzone, però prima di passare alla canzone io volevo leggere una brevissima poesia di Liliana Bellemo, che forse lei conosce. Mia sorella. Scherzo, sì. Allora, leggo Amico Tiglio. Venne la primavera e ti piantarono nel giardino. Tornò la primavera e l'esile arbusto cominciò a fiorire. Quante le primavere con te, compagno della mia giovinezza. È tornata la primavera e di te nient'altro che ricordi. Ecco, adesso ci ascoltiamo la canzone, lei aspetta un momentino in linea che poi la riprendiamo, d'accordo? Va benissimo. Bene. Allora, la seconda canzone in programma è Mon Amour, che è cantata da Gigi D'Alessio. Che c'è, meno sudato arriverò da te. Dai, Io ti guardo e rido, mi giro il caffè, un mezzo limone lo tuffi nel tè. Guardiamo verso il cielo, tra poco arriverà la prima stella che ci guiderà. Quando è stanotte il tramonto è solo mon amour, mon amour, non quiero darte mi corazón, mon amour, mon amour, a piedi nudi vicino al mar, a bailar, a bailar, toda la noche quisiera estar, mon amour, mon amour. Quando è stanotte il tramonto è solo mon amour, mon amour, non quiero darte mi corazón. Cioè porti la voglia a buscar. Quando è stanotte. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo ancora al telefono il professor Luciano Bellemo. Buonasera. Eccoci qua ancora. Ecco, così gli abbiamo fatto ascoltare una canzone latinoamericana, si può dire un pochino, no? Allora le passo il collega che deve chiederle qualcosa. Sì, riguardo a Ciosotti e Marinanti, eccetera, la rivalità, eccetera, viene legittimo e lecito chiedersi delle baruffe Ciosotte, che è, diciamo, una delle cose, come dire, più conosciute riguardo a Chioggia. Sì, la tradizione. Praticamente il Goldoni era qui aiutante del Cogidor di Venezia, quindi si è fatto qui, diciamo, siccome lui era laureato in diritto, si è fatto, diciamo, i primi passi. Uditore, esatto, diremmo oggi, sì. E quindi lui lavorava e ha visto queste baruffe, perché i Chioggiotti sono caratteri molto, come la gente di mare, molto calda subito. Sanguigni. E dopo 20 minuti magari sono ancora insieme, ma c'è questa caratteristica. A volte dicono che siamo il sud del Veneto, è anche vero, siamo il sud del Veneto. E lui racconta di queste baruffe, una di queste baruffe che poi lui è immortalato nel teatro. Io ho due figli, anzi tre adesso, che lavorano col piccolo teatro di Chioggia e fanno i personaggi. Ah, bellissimo. Quindi ce li ho in casa ogni tanto, anche per lavare i panni loro, metterli a posto. E ultimamente poi con un gruppo, con altre eventi, fanno le baruffe chioggiotte in calle, cioè durante il periodo di agosto, girano col teatro, non più fisso, nelle varie parti dove e si racconta appunto di queste baruffe, fanno le baruffe nelle zone di Chioggia. Ecco, questa è una splendida iniziativa effettivamente, che dovrebbe essere copiata in altri ambiti, nel senso con altre caratteristiche, proprio far conoscere il territorio, bellissimo. Quindi diciamo, di solito c'è un numero fisso, purtroppo, perché è un teatro gira a giro e più di un 120-130 sedie fisse non ci possono essere, chiaramente. Certo. E quindi partono dall'inizio di Chioggia e vedono tutta la città. D'altronde poi il direttore di questo gruppo è diventato ultimamente anche l'assessore alla cultura del comune, quindi adesso gioca in casa. Perfetto. Ma andate anche fuori Chioggia, vanno anche fuori Chioggia a rappresentare? A rappresentare, sono andati addirittura, mia figlia mi dice ultimamente, sono andati oltre che in Italia, a Roma, e sono andati in Austria, a Vienna, poi sono stati in Canada, poi ogni tanto li chiamano, perché il piccolo teatro ha una tradizione di quasi oltre 30 anni di baruffe chioggiotte. D'altronde, quando il piccolo di Milano ha voluto farlo per la TV e anche per teatro, è venuto qui, sono rimasti, la Valonghi è rimasta qui alcuni mesi per imparare un po' la flessione della... che non è semplice. No, in effetti non è molto semplice. Io parlo italiano, ma posso parlare anche in ciosotto, che è tutto un altro batello. Beh, è bellissimo, è un'inflessione molto particolare, molto bella. Chissà da dove deriva questo dialetto chioggiotto? Perché ci sono varie ipotesi. Un'ipotesi è che sia un miscuglio tra il Veneto e una parte dei genovesi che si sono firmati qua dopo la guerra del 1380. Interessante. C'è qualcosa di asprigno. Però anche perché molti di questi genovesi furono fatti prigionieri. Finita la guerra li facevano dire a questi prigionieri, di la parola capra. Siccome i genovesi hanno la ro, Ecco, chi diceva capra non veniva, veniva messo da parte, mentre gli altri mercenari, quelli di Padova, delle altre zone, venivano messi da parte e sono stati liberati. E questi mercenari genovesi, la maggior parte, l'hanno portati a Venezia. Però alcuni sono fermati qua, perché l'amore non guarda i confini, non ha problemi da questo punto di vista. Sì. Beh, e quella volta chi la guerra, chi l'ha vinta? Allora, all'inizio i genovesi hanno occupato la città, alla fine poi i veneziani, Vittor Pisani, ha distrutto completamente, li ha fatti prigionieri i genovesi, e così è finita. Praticamente è stato però una distruzione di energie, di ricchezza. Beh, anche. Le guerre sono sempre guerre, per quanto brevi siano, sempre guerre. Due anni di guerra guerreggiata. Spietata. Oltretutto qui abbiamo il sistema, il comandante diciamo genovese è morto perché ha sparato, una delle prime volte che sparavano con le bombarde, con i cannoni, e cadendo giù il campanile di Brondolo gli è andato addosso ed è morto. E lui è stato poi messo sotto sale, perché Chioggia era la città del sale, e portato a Genova sotto sale, così si è, così si è mantenuto, sì, si è conservato bene. È un sistema, anche quello. Volevo fare una piccola parentesi, perché poi ci ascoltiamo un attimo un pezzettino della ballata. Ho sentito lei ha composto questa ballata del Re Pipino e l'altra canzone, Il Desarmo. Questa ballata è cantata da bambini? Sì. Bambini, i vostri bambini lì di Chioggia? Sì, è cantata a scuola, viene considerata, anche perché inizialmente era cantata dai maestri indipendentemente dall'autore, non interessava, perché ricorda un fatto storico. E poi ha sorvolato i confini e un gruppo che io non conoscevo di Rimini l'ha messa in musica e poi ha fatto il disco e è passata. Quindi lei ha composto le parole e la musica? La musica è del mio compare di matrimonio, che si chiama Feletti Renato, che ultimamente è diventato anche prete, tra l'altro. Ah, delizio. È parroco in una città. E poi c'è un signore anche che canta, oltre ai bambini. Ma quelli non li conosco, il gruppo Arcobaleno di Rimini. Non so dire di che tribù siano. Me l'hanno mandata, a me va benissimo. Benissimo, adesso lei stia qui con me, con noi, che ci ascoltiamo un pezzettino di questa sua ballata. Adirato fu Re Pipino, che era nipote di Carlo Martello, disse a Clodia Maior et Minor, lascerò solo il cartello. E l'ha stato ogni ben suo, e si sconde sol paluro, e sta invece con la penegura, che della morte noi ha paura. Re Pipino. Ecco, abbiamo sentito un piccolo assaggio della ballata, molto carina, eh? A cosa si riferisce un fatto? A un fatto storico, il figlio di Carlo Magno, re d'Italia, Pipino, sì? Che rappresentava i Franchi, chiaramente, se la prende contro i Bizantini, che sono qui nella zona di Venezia, distrugge Cavazzere, Chioggia e viene sconfitto vicino al Canale degli Orfani tra Malamocco e Venezia. E lui praticamente viene sconfitto da una tecnica. I veneziani li lasciarono entrare con le navi di Alto Chiglio nella Laguna Veneta e poi, quando l'acqua è diventata, c'è stata la bassa marea, sono andate tutte a picco, cioè le navi si sono fermate e le piccole barche dei veneziani, dei chioggioti e altro, li hanno circondati e hanno sconfitto. Quindi abbiamo un racconto storico, noi l'abbiamo applicato a un fatto del 1945, il 27 di aprile, quando Chioggia, secondo una tradizione, secondo i dati, doveva essere bombardata dagli anglo-americani, perché i tedeschi non erano arrendersi, e l'abbiamo applicato una storia all'altra. Ho capito, invece l'altro? L'altro è il Desarmo, sono gli anziani che e vengono abbandonati da tutti, accade il sole sulla bricola, tre bregosi tase, is in desarmo, non serve più, cioè non servono più come le barche, ma il Cristo di Chioggia, che è un crocifisso alto 4,30 m, si trova nella chiesa di San Domenico, probabilmente di origine greca, più o meno 1350-1400, ecco, quello dice no, da me il desarmo, cioè che le barche vanno in distruzione, la vita dell'uomo è in distruzione, da me non c'è. È molto semplice, la canta il coro di Chioggia. Ah, quindi posso chiederle se così se facciamo come la ballata? Posso mandargliela? Ecco, appunto, che poi magari la faccio sentire. Sì, non c'è problema. Ecco. Allora, torniamo alle tradizioni e anche al disaccordo fra Sottomarina e Chioggia. Ciosotti e Marinanti. Sì, Ciosotti e Marinanti. Ma perché questo? Perché diceva che le donne, le famiglie di Sottomarina, adesso sposare un Ciosotto, no, ne ha poca voglia di lavorare, perché quelli di Sottomarina hanno, come tutti i veneti, come diciamo i contadini, gli ortolani, la mania del lavoro. Quelli lavorano finché muoiono. Ah, sono dei grandi lavoratori. Grandi lavoratori, sì. Quelli dal mattino, dal sorgere del sole al tramonto, sempre in lavoro. Infaticabili. Ecco, invece i Ciosotti lavora quelle ore della pesca e dopo sì. Basta. Magari una volta lavoravano 5-6 mesi dall'altra parte dell'Adriatico, poi ritornavano quando era giugno, perché il pesce, secondo il caldo e il freddo, si spostava. E quindi per alcuni mesi non vedevano le famiglie, poi quando tornavano, quindi arrivavano i soldi, festa grande, magna beva, porta borse, come chi dice Ciosotti. Comunque deve essere veramente buono il pesce lì da voi. Ah sì, guardi, io sono chioggiotto, ho insegnato a mia moglie come si fa il pesce alla chioggiotta. Ah. C'è ad esempio il saore, quello che fanno a Venezia, fanno anche a Chioggia. A Chioggia lo fanno con un sistema più a sprigno, non si mette le uvette, non si mettono i pinoli, si mangia così com'è. Non le sardelle in saore, tutto? Si può mettere le sardelle, si mette le sogliole anche in sapore, in saore, si può mettere tutto il pesce, perché il saore è il sistema per cui con cipolle e aceto il pesce continuava per parecchie settimane a esistere, quindi più pesce c'è e non andava consumato, si poteva recuperare. Quindi sì. E altre tradizioni cosa avete? Le vongole, ad esempio, da noi, il risotto di vongole. Noi abbiamo allevamenti di vongole, allevamenti dei mitili di mari, peocci cosiddetti, sì. E anche questi sono molto buoni. Adesso ultimamente hanno portato la Venus, quella delle Filippine, che sta distruggendo, soppiantando, quello è un problema, e ultimamente c'è un po' di crisi, però per una decina d'anni era un grande produttore di molluschi che venivano poi mandati alle grandi ditte di conservazione dei molluschi. Comunque a Chioggia ce ne sono quando vuole, anche a prezzi molto buoni. Beh, immagino, perché ce ne sarà tanto. Sì. E questa è la vostra, cioè è il lavoro dei pescatori. Questo è il lavoro dei pescatori. Principale di Chioggia. Beh, poi c'è quello degli ortolani. A Chioggia c'è anche il commercio, che è tipico di una città. Poi c'è il turismo. Chioggia c'è il porto. Ultimamente sì. È stato rimesso in piedi il porto, era un porto antico, e perché una volta le barche passavano e portavano il sale da Chioggia fino a Pavia. Ci sono ancora i canali interni che possono portare il materiale dal porto marittimo al porto fluviale, su via Fissero Canal Bianco fino al Po e poi su fino a Pavia. Infatti c'è il raid Pavia-Venezia che viene fatto con le barche molto veloci, ecco, gli offshore, che partono da lì e arrivano fino a Venezia. Sì, ancora organizzato. Sì. Ancora abbiamo, sì, le merci arrivano attraverso il mare. Una volta arrivavano chiaramente attraverso il mare, oggi ci sono i tir, non c'è problema. Ma si potrebbe anche ripensare, perché la Repubblica Veneta aveva tutti questi canali che servivano per portare la merce, era molto più comodo allora, che strade erano quelle che erano, e si portava lungo i canali. Eh sì, adesso invece con... adesso c'è la Romea, che è una delle intasatissime e pericolose, è più pericolose delle vie, perché viene fatta da chi vuole evitare le autostrade, e quindi passa vicino a Chioggia, vicinissima, ed è sempre rischiosa. Poi con la nebbia che c'è è un altro rischio. Avete tanta nebbia voi? Sì, come a Venezia. Ah, come a Venezia. È il Caligo, come il Caligo, sì. Ma comunque chissà perché io i trasporti delle merci per mare mi ha sempre affascinato, più che adesso invece siamo tutti moderni. Tu Antonio hai qualcosa sì, da chiedere? Sì, avremo una curiosità, diciamo, che mi fa sempre impazzire quando l'ascolto. Il cognome a Chioggia, se io dico Boscolo. Se va sotto Marina, se vede 10 persone dice Boscolo, 7 si girano. Poi dice Tiozzo, si girano le altre 2, poi il resto è un altro cognome. Hanno dovuto fare una legge il Parlamento italiano, proprio l'anno scorso, per cui sulla carta d'identità c'è il cognome con il detto. Straordinario questo, deve essere unico in Italia. Sì, ovviamente non ci si conosce. Io conosco tantissimi che hanno... Anche il mio cognome è Bellemo, ad esempio, non è molto... Noi siamo qui 600 persone e ci riconosciamo per detto. Ci sono 3 professori Bellemo Luciano, quindi telefono è rischio qualcuno. Rischio di omonimia proprio. È un problema. Infatti io ieri, cercando il suo numero su internet, ho trovato Bellemo Liliano, Luciano, e mi ha detto, sì, mi mettiamo Bellemo Luciano, però non sono professore. Non su mi. Ma c'erano anche altri, ce ne sono altri 3, quindi si immagina... I problemi, tanto che i parroci quando andavano a sposarsi chiedevano sempre il detto per evitare che si sposassero tra parenti. Quindi Boscolo, Luciano, Agostini ad esempio, però poi si aggiungeva un ulteriore soprannome per distinguersi, ad esempio Boscolo, Luciano, Agostini, Padre Eterno, cioè tutto il, diciamo, la trafila per evitare appunto il problema del matrimonio tra parenti. Allora professore, se lei adesso resta ancora un momento in linea che ascoltiamo un'altra canzone, poi passiamo all'ultima, ci salutiamo, dopo leggo un'altra poesia di Liliana, poi ci salutiamo e ci promettiamo magari, cioè lei ci promette magari di tornare, magari fra un... Di risentirci, volentieri. Ecco, bene, allora adesso un attimo di sosta e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata da Mina ed intitolata Quando ero piccola. Quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada per la paura della solitudine, paura che non m'ha lasciato mai, nemmeno adesso che sei qui e dormi accanto a me. Ma sento che i tuoi sogni ti allontanano, perché per quelli che si amano non c'è lo stesso sogno da sognare in due. Una donna è più sola quando l'uomo che ha vicino non riesce a leggere nei suoi pensieri. Quando ero piccola sola, adesso io vorrei sognare quel che stai sognando tu. Una donna è più sola quando l'uomo che ha vicino non riesce a suoi pensieri. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo ancora il telefono. Bene, buonasera ancora. Ecco di nuovo. Allora, professore, io vorrei leggere un'altra poesia di Liliana. Benissimo. Ecco. Fiore nel deserto. Quando il nulla assale, osservi le vani vuote. Raggio di sole fugge, finisce anche la pioggia. Effimera la vita. Tutto corre e passa. Solo l'amore resta. Fiore nel deserto dei giorni. E visto che ho un po' di tempo, se al professore non dispiace, leggerei un'altra poesia sempre di Liliana che a me piace. Benissimo. Tanto. La fontana. Scorre cantando la vecchia fontana. Schizza, zampilla, gioca e ritorna. Affonda festosi cerchi tracciando. Mani di bimbo accoglie e rispetta. Baci estasiati discreta carpisce. Osserva, sorride, poi si ributta. Siede una vecchia chiedendo frescura. La fontanella più forte prorompe, saltella e allegra offre ristoro. Discende la sera, là nel silenzio cheta riposa la vecchia fontana. Nella sua pace sorride tranquilla. Il talento è un vizio di famiglia, diciamo. Ecco. Sì, anche se il nostro padre faceva il molecante. Cioè? Moeche. Pensi che sono arrivati ultimamente dal Giappone per fare un lavoro per la TV giapponese sulle molecche. Addirittura. Per mangiare quello che il terante, cioè quello che andava nei vieri, nei cesti dove c'erano queste molecche, andava a cernirle, cioè a tirarle a fuori, sì. In modo che fossero commestibili subito. Ho capito. Ma lei ha qualche figlio che non so che scrive, che... No, io ho un figlio che fa teatro, sì? Ed è giornalista, sì, ah. E lavora però anche con un'assicurazione al suo lavoro. Mia figlia che è laureata in lettere, l'altro è laureata in economia, e ha insegnato a 23 anni all'Università di Oradea in Romania letteratura italiana. Allora, adesso ha vinto un concorso, anche lei fa teatro col piccolo teatro di Chioggia, ha avuto la maschera d'argento come attrice. Però. E ultimamente ha vinto un concorso e lavora in segreteria del sindaco di Chioggia, ha vinto il concorso Quarga. Comunque, ho due figli, due giornalisti, uno peggio dell'altro. diciamo non uno... avevo sbagliato a dire del talento, quindi. Diciamo uno meglio dell'altro, dai. E poi c'è il mia sorella che scrive poesie, sì, il figlio suo che fa lavoro per i fumetti. Sì, infatti ho sentito... E Francesco ha lavorato Francesco, anche sì. Per molte, ad esempio, il suo esodo dei ponti di Venezia, per due volte ha vinto lui il concorso e il bozzetto è suo. Bene. Essendo studente... Sì, sì. Ma Liliana ha cinque figli, poi. Sì, ha cinque figli, poi ognuno di una sensibilità diversa. Ah, beh sì. Sono tutti i miei nipoti, la tribù. Beh sì, cinque non sono mica pochi. Cinque, tre ne abbiamo noi, e quindi quando ci troviamo insieme cominciamo già a fare famiglia grande. Una bella squadra. Ecco, non lo so, adesso il tempo sta per scadere, quindi non so, lei magari fra un mese, due, può così... Quando volete, adesso sono in pensione. Perché ho tentato di rovinare la scuola e non ce l'ho fatta, e ho lasciato i giovani questo arduo compito. Magari ci parla un po' di qualche altra isola di vicina. Cioè... Sì, posso parlare del gatto se volete. Del gatto? Il gatto è Deciosa. Ah, cos'è il gatto? Scusa, adesso mi ha messo in curiosità. Allora, esiste una colonna a Vigo, dove arriva i Vaporetti, dove c'è un leone piccolo. E allora i padovani dicono che quello è il gatto Deciosa, un leone piccolo. Un felino comunque. E ci portano le spine. Ah. In realtà si tratta invece di un fatto storico, cioè i chioggioti assieme ai veneziani e per ordine del Papa hanno fatto una crociata contro Ezzelino da Romano che era eretico e hanno conquistato Padova con il gatto che era ovinea, era un sistema per abbattere le porte. Ah. E quindi dicevano di aver preso Padova col gatto. Allora, ognuno la dice a modo suo. Si tratta dell'11 giugno del 1256, quindi abbiamo anche i dati storici. Però... e l'storico Rolandino, che è un notaio di Padova, ci parla di questa conquista di Padova attraverso il gatto, quindi è un padovano che lo dice. Ritiriamo. Molto interessante. E per compenso devono dare delle galline che il giovedì grasso venivano abbandonate per le calli, da cui il nome galline padovane. Ecco, le galline padovane. E allora abbiamo fatto patta, loro ci dicono che noi abbiamo il gatto, noi diciamo che sono allora, galline padovane. Alle galline padovane. Professore, noi la ringraziamo. E è stato veramente un grande piacere. Grande piacere. Anche mio. È stato veramente una bella... una bella lezione, diciamo. Ecco. È una chiacchierata. Una bella diciamo. Chiacchierata, sì, sì. E... a risentirci al più presto. Va bene, auguri per la vostra trasmissione. Grazie. Alla prossima volta. Buona serata. Lei. Ecco, allora abbiamo sentito il professor Bellemo che ci ha allietato con tutte le sue informazioni culturali. Abbiamo e in ultimo anche quella del gatto, che non la sapevo io. Non l'avevo mai sentita nemmeno io. Tu la sapevi? No. No? Neanche tu? Beh, adesso la prossima volta magari ci faremo raccontare qualche altra storiella interessante. Adesso ci ascoltiamo la quarta canzone ed è cantata da Francesco Renga, La voce del silenzio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E che ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna. Aspettavo mai, vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento. Eccoci qua nuovamente in studio e concludiamo diciamo questa puntata con un paio di chicche dal libro Par modo de dir del professor Gianfranco Siega, A bagnomaria. Il modo indica per traslato metaforico l'essere accaldati tanto da sciogliersi in sudore, quasi un sentirsi immersi in acqua tiepida. A bagnomaria è uno dei molteplici modi di cuocere o di riscaldare i cibi, in questo caso mettendoli dentro un recipiente immerso in un altro contenente acqua alla temperatura voluta. Questo metodo di cottura è mutuato da un antico procedimento alchemico giuntoci dalla Spagna moresca. L'alchimista aveva la scelta tra due vie operative, quella secca e quella umida. La prima a fuoco vivo e la seconda attraverso la via umida, a bagnomaria appunto, che alcuni vorrebbero addirittura far risalire le pratiche magiche della leggendaria Maria l'Ebrea, sorella di Mosè e di Aronne. Nota, la prima traduzione latina di un testo alchemico arabo, il libro della composizione di alchimia, è dovuta a Roberto di Chester, febbraio 1144. Dalla tradizione alchemica ci sono giunti molti termini quali alchimia, chimica, elixir, elisir, alambic, alambicco e alcol, polvere finissima, passato poi a significare ogni tipo di essenza volatile. Al vocabolario italiano alcol corrisponde il veneziano spirito. I procedimenti alchemici diffusissimi in Europa, nella trappola alchemica incapparono anche molti dottori della Chiesa, quali Sant'Alberto Magno e San Tommaso, furono condannati da Papa Giovanni XII, Jaime Duesa, in un decretale del 1317, condanna poi parzialmente confermata anche dal Concilio di Trento. Un'altra simpatica chicca è «A ben po'!» «A bene poi!» esclamazione di meraviglia col senso di «Anche questo mi è toccato sentire o di vedere, anche questa doveva capitarmi». Accadde a Venezia alla fine degli anni 50. Uno squilibrato che si era imbarcato sulla motonave Concordia, linea Venezia-Chioggia, si rivolse improvvisamente al capitano di bordo brandendo minacciosamente un coltello. «Questo è un dirottamento! Presto! Acciosa!» Il capitano gli fece semplicemente e cortesemente notare che stavano andando proprio lì, a Chioggia. E al povero dirottatore fallito non restò altro che dire «Ah, ben po'!» rinfoderare il coltello ed aspettare i questurini. 10 giorni di guardina per contrariati articoli 17 e 47 del codice di pubblica sicurezza. Che simpatiche. Sono molto simpatiche queste... Decisamente sono delle chicche proprio di vita vissuta. Ma scritte bene proprio... Questo è dell'editoria universitaria di Venezia e sono come sottotitolo, di par modo de dire, storie, leggende, aneddoti e curiosità intorno ai modi di dire del nostro dialetto, precipuamente quello veneziano. Sì, sì. Ma sono molto, ma mi hanno detto che ci sono anche delle belle leggende veneziane, bisogna che vada. Sì, sì, ce ne sono, quella del Bocco, quella del Merletto e altre. C'è un libro specifico sulle leggende veneziane. Ce l'hai tu? Dovrei averlo, sì, devo verificare. Se non ce l'hai, lo procuro. Certamente. Quindi ormai anche stasera siamo arrivati a. Esatto, ci sentiamo, diciamo, l'ultima canzone. Ci sentiamo ascoltiamo l'ultima canzone. Beh, come ultima canzone. Che a me piace, è La ragazza con gli occhi di sole dei Pooh. Ragazza con gli occhi di sole cominciava ogni giorno la vita, su quel treno di folla e di fumo che dal mare portava in città. Tra i giornali malati di noia la guardavo guardare il mattino, con la fronte sul vetro veloce che sfiorava le case del sud. E chissà se sentiva il mio cuore mentre mi innamoravo di lei. Ti porterò da questi giorni uguali, per tutti i miei domani sarai con Allora, eccoci di nuovo in studio dopo averti ascoltato la canzone La ragazza con gli occhi di sole. A me piace sempre. È un po' lenta, sì, come così vi concilia un pochino il sonno, dai. Cosa dice Antonio? No, diciamo che occorre offrire una varietà, anche perché le emozioni possono essere diverse e possono essere contrastanti e possono essere anche contemporanee. Gli inglesi hanno una parola per definire questo che si chiama mixed feelings, cioè sentimenti contrastanti, sentimenti, sì, che naturalmente costituiscono la vita delle persone, eccetera. Quindi nulla di anormale, nulla di particolare. Ma io ogni volta che l'ascolto immagino spazi treno, immensi, pendo, sì, il treno che parte, questo treno di pendolari che parte, questa ragazza che guarda il mare, che, niente, questo naturalmente fa parte delle vicende umane. Ecco, benissimo. Allora, Antonio, io ti ringrazio come sempre. Io ringrazio te e naturalmente in modo particolare le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno la pazienza di seguirci in questa nostra avventura. E anche il nostro regista, e nato, che il nostro regista naturalmente paziente, e che così con te, con Eddie, il nostro regista, e con me, e auguriamo a tutti la buonanotte. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.